confermiamo che la notizia è vera, sui beni confiscati del fascicolo Vincenzo Simonelli più 3 non ci sono i pannelli con la scritta proprietà del comune di Pignataro Maggiore, bene confiscato alla Camorra. Allora, tu però, voglio dire, vivi a Pignataro Maggiore, probabilmente lì anche le pietre sanno che quelli erano di proprietà di Vincenzo Simonelli. Perché reputi così importante che lì ci sia scritto bene confiscato alla Camorra? Intanto vorrei confermare che la notizia è vera, confermata anche dal sindaco, che in un comunicato dell'8 settembre ha dichiarato: i pannelli a cui fa riferimento il palmesano verranno posizionati sui beni in questione. Va bene, questo poi lo sentiremo con il sindaco. Significa che i pannelli non ci sono. Va bene. È importante perché? Perché in un paese di mafia come Pignataro Maggiore i simboli sono una cosa fondamentale. Sono perfettamente d'accordo con quando te. Quando si mette un pannello con scritto bene confiscato significa che la presenza delle istituzioni c'è, che lo Stato c'è. Certo. Quando non si mettono vuol dire che c'è qualche timidezza. Oh, vorrei... E poi c'è un fatto anche concreto, su altri beni confiscati, quelli del fascicolo ligato, la polizia nel giugno 2007 sorprese delle persone che stavano raccogliendo pesche sul bene confiscato, perché dissero che avevano un contratto di affitto con i proprietari, cioè con la moglie del boss ligato, Maria Giuseppa Lubrano, e non sapevano che erano beni confiscati alla Camorra. Se il comune avesse messo i pannelli anche sul bene ligato, ad un certo punto sarebbero stati arrestati, non potevano far finta di certo, sapere. Certo, certo. I beni sono tornati nelle mani della Camorra che si fa le pesche al posto delle associazioni e non succede niente, sono pannelli che non ci stanno dalla bellezza di 7 anni, perché questi beni sono stati consegnati al comune nel 2003.